Ho qui davanti a me un foglio in cui ho fatto una scaletta dei temi che vorrei trattare. Ecco, alcuni di questi temi sono sotto il mio comune utilizzo quotidiano, quindi li uso sempre, quindi sono del tutto congeniali. Altri sono un pochino più datati nel tempo, cioè li conoscevo meglio un tempo, ma comunque penso di poterne parlare ancora. Allora, intanto partiamo da una cosa che per esempio in Aleph utilizziamo abbastanza spesso. Una prima cosa da conoscere quando ci si avvicina al mondo della psiche per capire come funzioniamo è rendersi conto che non siamo un'unità, cioè che non è vero che c'è un solo io pensante, ma che al nostro interno esistono, possiamo così, differenti voci. Differenti voci che parlano in tempi diversi, qualche volta contemporaneamente, e sembra di assistere a un dibattito. Questa non è esperienza schizofrenica, è l'esperienza normale di tutte le persone. Non tutti se ne rendono conto, ovviamente. La prima cosa è rendersi conto che al nostro interno, diciamo così, abitano parti diverse, istanze diverse, alcune delle quali più consapevoli e altre meno consapevoli. Un modo semplice per parlare di queste cose è parlare di supersonalità. Supersonalità cosa sono? Sono come dei personaggi che abitano al nostro interno, che sono caratterizzati da un certo stile di pensiero, un modo di vedere il mondo. Le supersonalità ci sono, e ovviamente ognuno di noi ha le sue, ma ce ne sono alcune che sono ricorrenti. E alcune di queste subpersonalità sono state studiate anche dalla psicopatologia, cioè perché alcune di queste subpersonalità creano proprio dei problemi. Un esempio è la subpersonalità ossessiva, un'altra è la subpersonalità paranoide, un'altra è la subpersonalità depressa, un'altra è la subpersonalità istrionica o la schizoide, ce ne sono tante. E in ognuna di queste subpersonalità ha uno stile di pensiero irrigidito, perché si identifica nel suo modo di pensare, nelle sue convinzioni, e cerca di imporre a tutta la persona il proprio modo di vedere le cose. Faccio un esempio molto semplice. Una supersonalità ossessiva ritiene di dover controllare le cose e che l'unico modo sensato di vivere sia di praticare il controllo su tutto, su tutte le cose più possibili. Quindi attenta ai dettagli, è preoccupata di non fare errori, è perfezionista, è ripetitiva. Per esempio, la supersonalità ossessiva ha grande difficoltà a decidere, perché decidere vuol dire tagliare, lasciare andare. Per la supersonalità ossessiva la decisione dovrebbe essere perfetta, ma non riesce mai a prenderla, e quindi c'è il meccanismo del dubbio e va avanti così. Adesso non voglio entrare ovviamente nell'ambito delle singole supersonalità, voglio solo darne una piccola idea. Bene, una persona al cui interno abita una supersonalità di questo tipo, è chiaro che qualche problema nella vita ce l'ha. Può essere un problema anche serio, del tipo che dovrà controllare se ha chiuso la porta più e più volte, se ha chiuso i rubinetti, dovrà controllare per esempio così, se ha buttato via qualcosa nella spazzatura, deve tirarla fuori 10 volte e così via. Bene. A parte questi fatti che sono evidenti di disturbi, ma ce ne sono molto altri che non appaiono come disturbi, ma che invece lo sono. Cioè, per esempio, una subpersonalità ossessiva tende ad avere uno stile di pensiero che porta al restringimento. E questo, per esempio, è un'idea dei cognitivisti. La psicologia cognitiva è oggi una delle psicologie più in crescita nel mondo accademico e anche nella psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-comportamentale è quella che sta maggiormente diffondendosi ed è anche quella più accreditata scientificamente. Ebbene, nell'ambito di questo tipo di psicologia si collega questo stile di pensiero alle forme di attaccamento materno. Ad esempio, si dice che lo stile ossessivo è collegato a un attaccamento evitante. E attaccamento evitante di cui adesso non parlo, ma è un modo con cui il bambino si rapporta con la madre, e la madre si rapporta con il bambino proprio nei primissimi anni di vita. Risultato, che qui interessa dal punto di vista della conoscenza, è che la struttura ossessiva tende a restringere il campo delle proprie conoscenze. E questo meccanismo si chiama proprio restringimento. I cognitivisti parlano di restringimento cognitivo. Col tempo la struttura ossessiva tende a occuparsi di sempre meno cose. Questo comporta delle conseguenze. Dialogare con questa struttura significa sapere che per molte cose non sarà interessata, perché o si va nei suoi interessi oppure niente. Quindi tende a limitare l'esplorazione. D'altra parte, tutti i problemi di attaccamento e rapporto tra madre e bambino, se ci sono problemi in quello, l'esplorazione si riduce, perché se c'è un buon attaccamento, con la madre, allora il bambino sviluppa l'altro polo. Attaccamento vuol dire base sicura e quindi può partire il movimento esplorativo del mondo. Se l'attaccamento è un attaccamento insicuro o evitante, è chiaro che c'è un problema con la madre, c'è paura e questa influisce immediatamente sugli aspetti della cognizione, c'è un restringimento della cognizione. Parlando a ruota libera, ci sono altre strutture che invece hanno un attaccamento di tipo un attaccamento di altro tipo può portare a una forma di immunizzazione, cioè non restringimento, l'ossessivo, ma immunizzazione.